24 di Giovanni Minoli. Ho cercato lungamente in questi minuti quali fossero delle parole, diciamo almeno in francese ortodosse, per rappresentare cosa io penso. E mi dovete scusare, l'unica cosa che io penso è che Roberto Speranza hai la faccia come il culo. Bentornati su Mixer 24, dunque queste le parole di Roberto Giachetti che saluto al congresso del PD. Ecco, onorevole Giachetti, a parte il colore delle sue parole, ma anche la franchezza per la verità di queste parole, la sua rabbia evidentemente era tantissima, perché lei dice la sinistra del partito con quello che dice si mette fuori dal partito. Politicamente, ho capito bene? Guarda, il tema è che la sinistra del partito, quando si doveva approvare il Mattarellum, era rivolta a questo la mia frase, sì. E cioè quando io presentai la famosa mozione per il ritorno al Mattarellum, lei mi intervistò anche. Certo, mi ricordo benissimo, benissimo. Roberto Speranza era capogruppo del gruppo del PD, Epifani era il segretario. Lei faceva lo sciopero della fame, io facevo addirittura. Lo sciopero della fame, c'erano i ministri nel governo e imposero a tutti i 70 parlamentari del PD che avevano firmato quella mozione di andare in aula e votare contro il ritorno a Mattarella. Sì. Adesso sentire Speranza che dice che ha presentato effetto. Una proposta e che spera che tutto il PD diventi per il Mattarellum, io lì ho perso non la bocca, come si sì, dice. Sì, vabbè, però è stato chiaro. È stato e ho chiaro. Detto quello che ho detto nel penso. Questo però si aggiunge, come lei giustamente diceva, a tutto quello che è successo in questo anno, comprese le ultime parole della minoranza di qualche giorno fa, quando a un certo punto hanno sostenuto che rispetto al governo Gentiloni loro avrebbero votato provvedimento caso per provvedimento, caso. Come se fossero un partito che dà l'appoggio certo. esterno al governo. Allora tutto questo, io ho posto in quei 5 minuti un tema, sì. Come può reggere una comunità nella quale le regole di civiltà e di convivenza democratica vengono sono violate saltate. Perché ciascuno ritiene di fare quello che vuole? Allora io le faccio una domanda, onorevole Giachetti, per stare in un partito qual è il livello minimo di coerenza necessario da avere? Rispettare le decisioni che vengono prese a maggioranza, come tutti noi quando siamo stati per lunghi anni in minoranza nel Partito Democratico facevamo le nostre battaglie all'interno, io ne ho fatte tante, però quando poi era come è successo sulla mozione sul Mattarello, quando poi la maggioranza si riunisce negli organi democratici e decide in un modo, tutti gli iscritti devono essere però vincolati. Però io le faccio una domanda provocatoria. Renzi ha messo la fiducia sull'Italicum rispetto al Mattarellum, quindi sì. Praticamente le stesse parole usate per Speranza valgono per Renzi, perché la fiducia è un atto che si mette ha capito, la domanda è precisa, cioè perché sì. Per Speranza valgono quelle parole e per Renzi no? Ma Renzi, lei forse non so chi ha cambiato più idea fra i due. Guardi che Renzi, nelle tre proposte che mandò a tutti i partiti, a tutti sì. chiedendogli di partecipare al dibattito sulla legge elettorale all'inizio, c'era anche il Mattarellum. Il Mattarellum, i 5 Stelle andarono sul tetto, gli altri partiti non se ne occuparono, l'unico che fu disponibile a lavorare sulla legge elettorale fu Berlusconi e Berlusconi scelse l'Italicum. Senta, non è però che il Mattarellum non c'era, in origine c'era anche il Mattarellum sulla proposta di Renzi. Sì, però Speranza era il capogruppo di Renzi, non è che si inventava. Speranza è stato del il capogruppo PD, confermato del da Renzi, è stato il capogruppo formato da Renzi, appunto, di Renzi. Nacque con la segreteria Bersani. Vabbè, ok, però era rimasto, quindi vuol dire che c'era la fiducia, c'era un'identità o comunque un minimo di percorso comune. Direttore, ormai il Mattarellum era stato bocciato in aula, quindi è chiaro che si sarebbe passata un'altra legge elettorale, che era una legge fatta quindi con Berlusconi, il patto del Nazareno. Quindi per Speranza vale la sua chiarezza, per Renzi le parole da usare non sono le stesse, diciamo. No, io ho solo detto che mentre Renzi era a favore del Mattarellum quando io ho fatto la mozione e sì. poi si è uniformata alle decisioni della maggioranza, coloro che oggi dicono che vogliono il Mattarellum sono quelli che quando c'era la possibilità di approvare il Mattarellum non l'hanno voluto. Va bene. È differente la certo. posizione. Esatto. Senta, ieri la capogruppo del PD del Campidoglio, Michela Di Biasi, qui da noi ha detto che se anche la Raggi arrivasse un avviso di garanzia non chiederebbe le dimissioni. Lei è d'accordo, no? Immagino. Puoi immaginare, conoscendo forse un pochino come la penso. La storia. Io penso che la Raggi deve iniziare a fare il sindaco, questo è il problema. La cosa importante sarebbe. È un po' complicato da vedere. Ecco. Senta, però Marino fuori con la firma a calci nel sedere, con la firma del notaio, la Raggi è meglio che resti col cerino in mano sostanzialmente. No, guarda, Guardi, Marino è andato a casa attraverso una previsione di legge, che è quella che se una maggioranza si dimettono, la maggioranza dei consiglieri vanno a casa. Ed è, no, è stato, lei parla sempre chiaro, quindi sì, diciamo. No, ma io guardi, io non ero né dentro i vertici del Partito Romano. No, ma è per questo però può avere delle opinioni libere. A distanza di 2 anni, lei forse, noi oggi abbiamo dimenticato quale era il dibattito politico su Marino, a prescindere dagli scontrini, cioè il fallimento di un'azione amministrativa che era sotto gli occhi di tutti. Allora, mettiamola così. Intanto il PD a Roma è un po' allo sbando. Non ha il segretario, c'è un commissario Orfini che il cui lavoro non è che brilli, ecco. Le faccio risentire quello che diceva all'epoca delle primarie del PD a Roma il ministro Marianna Madia. Io ho visto, Fabrizio, non ho paura a dirlo, delle vere e proprie piccole associazioni a delinquere sul territorio. Ecco, non male. Se n'è accorto lei facendo la campagna elettorale, se n'è accorto anche lei. Volevo dirle che io ho fatto una campagna elettorale, anche se ovviamente è vero quello che lei ricorda della Madia, è vero anche che dopo tutto quello che è emerso con Mafia Capitale, il commissariamento che lei giustamente mette in rilievo sterilizza comunque la vita democratica di un partito e crea dei problemi, col lavoro che ha fatto Fabrizio Barca sui circoli ha anche fatto un'opera di grande pulizia all'interno del Partito Democratico. Averlo pulito non vuol dire che sia particolarmente... No, voglio sapere se facendo la campagna elettorale, quindi si è reso conto che era vero, che era così. Ma certo che era vero, e soprattutto se ne sono resi conto i cittadini che ovviamente al momento del voto hanno dato un segnale molto chiaro al Partito Democratico. Senti, ma se si rivotasse lei si ripresenterebbe come candidato? No, ma guardi, questo tema non si pone perché deve il sindaco, non stiamo scherzando, qui c'è stata un'elezione 6 mesi fa, questa persona ha preso 700.000 voti, adesso deve fare il piacere di governare, se è capace. Se non è capace deve dichiarare fallimento, a quel punto si riaprirà tutta un'altra vicenda. Non ci penso neanche a pormi questo problema, io voglio fare opposizione rispettando il voto dei cittadini romani. Senta, lo rispetto io, lo devono rispettare anche loro. Senta, i grandi leader quando perdono, in generale, penso a Mitterrand, penso a tanti altri, fanno una traversata del deserto per meditare prima di ripartire, riflettere bene sul e tanto più sono forti, tanto più lo fanno. Ecco, quella di Renzi è durata una settimana, non è un po' poco? Guardi, io non sono in grado di dirle che cosa accade a ciascuno di noi quando si prendono delle sconfitte. Ma... No, nel senso, quindi io non so, ognuno si comporta come si sente di comportarsi e fa le scelte che crede. E posso assicurarle che io ho preso una sconfitta sonora alle comunali e umanamente, politicamente, non è semplice affrontare... lo so bene, per questo in genere ci vuole del tempo. Ognuno reagisce come sente di reagire. Quindi lei dice che una riflessione un po' approfondita non è detto che per tutti sia la strada. Ecco, non questo. È detto che non sia in corso una riflessione approfondita anche senza fare la traversata del deserto. Senta, le faccio un'ultima domanda. Ma secondo lei quando si vota alla fine? Ma io penso che noi dobbiamo votare quando è possibile. Secondo me, conoscendo i ritmi parlamentari, i problemi che abbiamo di fronte e via dicendo, io penso che difficilmente noi potremo votare prima di giugno. Grazie onorevole Giachetti. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Omicidio in diretta davanti ai fotografi e alle telecamere delle TV turche che erano arrivate per filmare il discorso dell'ambasciatore russo. L'attentatore era un poliziotto appartenente alle unità antisommossa di Ankara e proprio mostrando il suo tesserino sarebbe riuscito ad oltrepassare tutti i controlli. Giuliano Tavaroli, esperto di sicurezza informatica, buongiorno. Prima di tutto l'abbiamo sentito, l'ambasciatore russo in Turchia è stato ucciso da 8 colpi di pistola in una galleria d'arte ad Ankara. Com'è possibile che non avesse un sistema di sicurezza che lo proteggeva? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sicuramente è impossibile, ma è successo. In premessa bisogna dire che ormai il rispetto che si aveva verso queste figure, delegazioni diplomatiche, è venuto meno da tempo, fatti anche non lontanissimi, l'assassinio dell'ambasciatore americano Benghazi, gli attentati alla delegazione diplomatica. Cioè sono dei bersagli. Sono dei bersagli facili, insomma. Ormai sì, la guerra diffusa del terrorismo non risparmia nessuno. Ecco, anche queste figure che nel passato avevano una sorta di rispetto accettato da tutte le parti. Ecco, parlando di sicurezza, io vorrei partire da un caso. Ecco, sentiamo questo blob un momento. Nuova bufera su Yahoo che, secondo un'inchiesta della Reuters, avrebbe in gran segreto scannerizzato centinaia di milioni di indirizzi di posta elettronica dei propri utenti, mettendoli a disposizione degli 007 americani. Oltre 1 miliardo le persone interessate, secondo quanto denunciato dalla stessa azienda. Secondo l'azienda informatica californiana, hacker stranieri sarebbero responsabili dell'attacco e nelle mani dei pirati informatici sarebbe finito anche il passaporto di Michelle Obama. L'attacco risalirebbe all'agosto del 2013, sarebbe precedente dunque a quello altrettanto grave del 2014 che colpì circa 500 milioni di utenti. Ecco, un altro modo di prendere il discorso sulla sicurezza. Uno nel 2013 ha subito un attacco hacker che ha messo a rischio 1 miliardo di utenti. La notizia è venuta fuori solo oggi perché Yahoo è in vendita. Tavarole, ma un'azienda così non avrebbe dovuto comunicare subito quello che era accaduto? Assolutamente sì, anche perché dal 2011 la SEC obbliga le aziende quotate a comunicare gli attacchi rilevanti alle strutture informatiche e ai dati. E quindi... In realtà Yahoo aveva già comunicato in precedenza di aver subito degli attacchi. Nessuno aveva compreso la dimensione, la portata del danno. Ecco. Ma in questi casi l'utente come può garantirsi rispetto a questo silenzio o comunque queste parole, diciamo, difficili da capire? L'utente oggi è decisamente inerme di fronte alla tecnologia che ha preso una tale velocità che ci lascia, come dire, quasi incapaci di gestire la nostra privacy. La deleghiamo a soggetti da cui ci aspetteremmo la competenza, gli investimenti necessari e l'attenzione alla nostra privacy. Ecco Tavaroli, però siamo in presenza di un provider che in qualche modo abusa del suo potere? Secondo me abusa della fiducia della gente. Ma perché non scattano sanzioni pesanti quando diventa chiaro questo? Perché innanzitutto bisogna distinguere, riesumo un aforisma che recentemente Tim Cook, il CEO di Apple, ha detto. Uno, molti dei servizi da cui noi utilizziamo quotidianamente sono gratis. La mail di Google, la mail di Yahoo, e Tim Cook diceva: se non sei il cliente sei il prodotto. Nel servizio breve si diceva: ha dato i dati alla sicurezza americana, quindi i nostri dati, le nostre informazioni noi le cediamo talvolta anche con un minimo di superficialità. Infatti le liste che sono sottratte in fondo sono state vendute per pochi soldi, qualche centinaia di migliaia di euro, e invece i danni possono essere danni enormi. Quindi sono bravi gli hacker o siano scarsamente difese le aziende informatiche? Aggiungerei una variabile, sono bravissimi gli hacker, perché oggi le informazioni hanno un grande valore economico e noi talvolta lo dimentichiamo, e le imprese che oggi gestiscono il mondo digitale non investono abbastanza per la sicurezza. Tenga presente che il futuro potrebbe essere anche più grigio se pensa che i dati in un mercato come quello americano della sanità, diverso da noi, hanno più valore sono i dati sanitari dei cittadini. Certo. Ma lei pensa che dietro l'attacco a EU ci sia la Russia? Se ne parla? Sicuramente oggi le superpotenze, anche dal punto di vista dello spionaggio e dell'attività di cyber intelligence, le conosciamo tutti, in primis la Russia, la Cina, ma anche l'Iran, Israele stesso, gli Stati Uniti. Questa guerra, è la nuova guerra, diciamo, la nuova guerra è questa. È la nuova guerra questa e forse anche il preambolo, una guerra forse sempre più giocata in questo spazio digitale in cui ci siamo tutti. Certo. Ci sono i cittadini, ci sono le istituzioni, ma c'è anche, come dire, il conflitto vero, la guerra digitale. Quindi siamo tutti in un grande, come dire, campo di battaglia nuovo. E le regole non le conosciamo. Perché non ci sono anche. Ecco, perché oggi non ci sono. Ma perché c'è questa russofobia informatica in giro? Lei ha un'idea? Perché si pensava che fossero solo gli americani ad avere il controllo di questo mondo? Ma insomma, diciamo che gli americani in questa gara si sono trovati un po' indietro per la prima volta, pur essendo i monopolisti. Come la gara sulla luna, insomma. Esatto, per un po' di anni ovviamente si ricorda la cinofobia. Era la Cina che attaccava i sistemi americani e quindi c'erano minacce ritorsive, anche il drone adesso gliel'hanno restituito. Gliel'hanno ridato, sì. Adesso è la Russia che viene indicata come un potenziale concorrente, anche particolarmente pervasivo nella guerra. Ma lei, per esempio, Tavaroli, lei crede, i democratici negli Stati Uniti dicono che Putin ha dato una mano a Trump nel voto, lei ci crede? Cioè esiste questa possibilità? Sicuramente esiste, sicuramente un hacker russo ha rivendicato questo attacco ai democratici, che fosse, come si dice, uno stato state sponsored, cioè che poi quell'attacco fosse indicato, deciso, a conoscenza della Russia, questo è ancora tutto da dimostrare. Tavarole, ma una guerra informatica quali danni può provocare? Mi fa degli esempi concreti? Ma sì, guardi, le cito un caso recente di ottobre che ce lo siamo un po' già dimenticati. Per alcune ore la costa est degli Stati Uniti ha avuto tutti i servizi internet accecati da un attacco di denial of service, cioè una ondata di attacchi a tutta questa azienda che era la DIN, che si occupava delle connessioni a internet. Per molte ore tutti i servizi erano fuori gioco, ma anche siti. Ed era un attacco di hackeraggio quello? Assolutamente sì, si chiama denial of service, come se tutti i cittadini, miliardi di cittadini chiamassero alcuni numeri di telefono rendendoli indisponibili. Peccato che erano i servizi internet. Accidente. Questo attacco è stato fatto con un malware, cioè con un virus che si chiama Mirai, che ha utilizzato come ponte tutti gli oggetti che noi oggi colleghiamo a internet. Fra qualche anno avremo decine di miliardi di oggetti su internet, che sono i nostri frigoriferi, le telecamere, cioè qualcuno ha detto i frigoriferi hanno attaccato internet. Quindi noi colleghiamo tutto. Quindi sarebbe quindi è meglio non guidare le auto senza guidatore, bravissimo. No? Perché, cioè, questo è l'altro scenario. L'altro modo di gestirci completamente. Gesteremo un mondo dove noi lasceremo al volante oggetti molto intelligenti che però non sappiamo, perché neanche lo chiederemo quanto saranno veramente. Senta, rapidamente, noi abbiamo visto che la Apple non voleva sbloccare un iPhone su richiesta della giustizia americana che cercava delle prove contro un terrorista possessore di quel telefono. Quindi la corporation aveva uno strapotere rispetto allo Stato, è così? La corporation cercava di affermare un principio che il suo prodotto in certe circostanze tutelava il cliente più che gli interessi generali. Questa è la battaglia di Apple. Ho capito, è un bel passaggio quello. Cioè, un passaggio difficilissimo. Ma chi deve controllare sulla sicurezza informatica, la difesa o i civili? Io penso che devono controllare entrambi negli spazi di responsabilità. Il tema vero è come facciamo ad avere un'idea se questo controllo è efficace o meno. Sì, ma diciamo questi giganti di internet come possono essere sottoposti a un controllo del governo se non ti aprono neanche uno smartphone? Beh, diciamo che i giganti di internet americani danno al governo americano tutte le informazioni richieste e da tempo. Nello spazio europeo l'autorità giudiziaria può chiedere di accedere ai dati. Sbloccare il telefono può diventare complicato, almeno per gli Apple, perché hanno fatto una scelta a tutela, diciamo, del loro prodotto. Tutto. Però questo, come altri spazi, è ancora completamente, voglio dire, deregolamentato non è la parola giusta, però dovrebbe essere soggetto un'ultima domanda: qual è l'incubo che lei non vorrebbe mai vedere, Tavaroli? L'attacco alle strutture primarie, come dicevo prima, hanno messo fuori uso un'intera costa degli Stati Uniti. Le immagini, se questo attacco, come è già stato si è già verificato negli Stati Uniti alcuni mesi fa, attaccassero banche, ospedali o trasporti. Questo è uno scenario, non così lontano. Cioè, apocalittico, ma mica tanto, sta dicendo. Assolutamente no, e anche l'Italia dovrebbe, come dire, fare uno sforzo in più per prepararsi e difendere il proprio spazio digitale. Grazie Tavaroli, 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, SMS. Mario, insomma, tu pensi che questa guerra fatta in questo modo si avvicina? Sì, c'è già. C'è già, è pericolosissima. Secondo me ci avviamo a un periodo di instabilità pazzesca. Più oggetti connessi, più insicurezza e più danni si faranno. È un mondo molto difficile. Cioè, noi abbiamo un caso in redazione molto interessante, che è quello di Pietrangelo, che è connesso permanentemente, sì, sempre, però scrive sempre con la penna. Sì, per non quindi farsi diciamo beccare. C'hai una doppia variante. No, semplicemente seguo qual è il processo della tecnica, come gli spiegava e come è definitivamente accertato Max Weber. La tecnica altro non è che un mantello che si trasformerà, e si è già trasformato per noi, in una gabbia d'acciaio. Certo, la tecnica è la dimensione dove noi quindi abbiamo quindi tu ti difendi anche con la penna. E mantengo l'identità e l'essenza dell'umano con la penna. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Di Assise di Appello di Milano, prima sezione, dichiara Alberto Stasi responsabile del reato a lui ascritto. Lo condanna alla pena di 16 anni di reclusione. Una nuova perizia nel caso del delitto di Garlasco potrebbe scagionare Alberto Stasi. Il DNA trovato sotto le unghie della ragazza non apparterebbe infatti a Stasi, ma a una terza persona. Ecco, Luca Telese, giornalista, conduttore televisivo, buongiorno, so che stai preparando un programma per fra poco, insomma, l'anno di cronaca. L'anno scorso ti sei occupato del delitto di Yara Gambirasio, con lo scoop del video del furgone di Bosetti, che era un filmino taroccato. Oggi ci sono nuovi sviluppi su un altro giallo, quello che riguarda Chiara Poggi, appunto la giovane uccisa a Garlasco nell'agosto del 2007, per il quale Alberto Stasi, come abbiamo sentito, sta scontando una condanna definitiva a 16 anni. Tu che idea ti sei fatto? Ciao intanto. Allora, buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti. Guarda, questo caso credo che sia la conferma di qualcosa che abbiamo detto anche a Mix 24. Cioè, si continua a considerare nella vulgata televisiva il DNA come una prova esclusiva, una prova certa. Il DNA è forse, questa è la testimonianza, la prova più manipolabile che esista. Cioè, non è la prova, non è la prova regina, ecco. Ma certo, ma pensa solo che questo stesso DNA che oggi viene presentato con anche la forza, l'impatto, il Corriere della Sera, come un colpo di scena clamoroso, è un elemento che è sul tavolo da 9 anni. Cioè, furono trovati subito questi elementi di DNA, però solo oggi vengono letti in un modo, cioè vengono ricomposti, vengono usati l'X e l'Xpion di due diverse tracce e usate per assemblarne una nuova. Sicuramente potrebbe essere quella vera, immagino che gli investigatori che hanno lavorato per la famiglia si hanno azzardato addirittura a indicare un'identità e oggi anche a confutare l'alibi abbiano degli elementi, però questi elementi erano sul tavolo, cambia il modo in cui li leggi. Per esempio, durante il processo Yara, questo problema delle tracce ricomposte, cioè tu hai un pezzo del soggetto ignoto uno da una parte, il pezzo del soggetto ignoto uno dall'altra, entrambi sono incompleti, ma se li fondi hai una figura intera, come una foto tagliata a metà. Ma no? Quindi secondo te è possibile identificare una famiglia, non un singolo soggetto? Assolutamente sì, questo perché il DNA mitocondriale stabilisce con esattezza, è stato usato per esempio nelle fosse comuni della guerra di Bosnia, stabilisce con esattezza, è quello che dura più a lungo il mitocondriale, e stabilisce con esattezza tutta la linea di discendenza matrilineare, quindi identifica una famiglia. Se però tu hai una traccia, come spesso accade, ecco la foto tagliata, in cui hai benissimo, molto ben leggibile il DNA mitocondriale ma non quello nucleare, allora devi riuscire a trovare più tracce e a sovrapporle, ma già questa è un'operazione, come dire, arbitraria, perché non viene da un'unica fotografia ma come da una foto ricomposta in un puzzle in cui ovviamente chi compie questo lavoro di ricerca anche in doti straordinarie commette una scelta. Ma Luca, ma allora concretamente cosa sono state fatte delle prove comparative in incognito per poter arrivare a questa ipotesi? Scusami Giovanni? Sono state fatte delle prove comparative in incognito? Per arrivare a questa richiesta. Io penso che non potrà essere detto esplicitamente, ma sicuramente è così, perché altrimenti non sarebbero arrivati a individuare E fra l'altro la prova comparativa in incognito non è vietata dalla legge, questa è una cosa interessante. Si possono fare intercettazioni nelle macchine, si può acquisire, diciamo così, un campione DNA di una persona anche senza il suo assenso e poi fare una prova di riscontro e chiedere che venga esaminato di nuovo. Cioè non è legale l'acquisizione illecita, ma è legale chiedere la prova del DNA, quindi diciamo è come andare a cercare una cosa che sai già dove sta se hai fatto una prova preliminare. Però ti faccio un esempio al contrario, sì. Nel caso per esempio famosissimo di Perugia, lì addirittura il DNA dei due principali imputati, sì, sulla scena del delitto non c'era, si trovò soprattutto, infatti, quello di Rudy Gedè, e si trovarono dei frammenti di DNA, anche qui con una percentuale, prima venne dato con certezza, c'è il DNA di Amanda, nel coltello che era a casa di Sollecito. Poi si trovò un elemento di DNA famosissimo, quello sul ferretto del reggiseno, su cui si fondò un intero processo e si disse questo è il DNA che inchioda e quindi, la carnefice. Aspetta, questa è la cosa incredibile. La Buongiorno fece setacciare dai suoi segugi integralmente 27 giorni di filmati di acquisizione delle prove e riuscì a dimostrare fotogramma per fotogramma che quello stesso ferretto era stato toccato così tante volte, spostato durante la perquisizione, che era stato sicuramente contaminato. Questo è il caso opposto. Da un lato abbiamo la foto tagliata a metà e ricomposta, in questo caso avevamo una foto che era come sopra scattata al punto da risultare adulterata. Vabbè, quindi diciamo, per essere semplici, Luca, questo che stai dicendo vuol dire che questa prova regina scientifica non esiste. È una prova da interpretare, ecco, e quindi cioè ogni interpretazione porta all'errore umano, implica la possibilità dell'errore umano. Non voglio dire che sia finta, perché no, certo, non è, però non è la verità, va interpretata. Assolutamente. E quindi tu cosa pensi che capiti in questo caso? Cioè, allora, in questo caso che margini di errori, è solo un problema di interpretazione, oppure è proprio, ci sono dei margini di errore reali attribuite a questo tipo di prove? Allora, la prova ha sicuramente un margine di errore che è dettato dal margine di interpretazione, però credo che in questo caso l'inchiesta mi sembra molto approfondita e l'incrocio combinato di un DNA ricomposto ha portato a individuare un soggetto. Gli investigatori mi sembra che abbiano lavorato, perché ora abbiamo due articoli che ci danno molti materiali, certo, hanno lavorato su questo soggetto e hanno trovato dei punti di corrispondenza. E quindi tu cosa fai? Prevedi una riapertura del processo? Se gli elementi sono che l'alibi di Bacilla più il DNA, lo devono riaprire per forza. Senti Luca, tu stai per partire con un tuo programma, di che cosa si tratta? Di cronaca? Sì, si tratta di cronaca e questo caso mi avrebbe appassionato moltissimo, come sta appassionando voi. Lo Però sento. Immaginate che c'è un film molto bello, non so se lo ricordi, Gatta, che è un film con Jude Law, certo, che immaginava una società del futuro in cui il DNA era la chiave di tutto. Non era ancora Papa Jude Law all'epoca. Non era ancora giovane Papa. Era un'utopia negativa ed era tutta la lotta di questo protagonista che provava a superare il suo destino combattendo contro il proprio DNA, al punto da scarnificarsi la pelle non lasciare delle tracce. Questa utopia negativa sta diventando realtà. Cioè, sempre infatti, più faremo una lotta con banche del DNA, saremo obbligati più o meno alla legge a dare il nostro DNA e sarà una grande battaglia legale. Allora, tanti auguri per il tuo lavoro, grazie. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. Allora Pietrangio, che sentiamo oggi? Eccole, bellissime. Ah, faccio beggio e sente sta canzone. La canto solo a te, coccio d'amore. Lo sangue mi fa volgere nelle vene. Se non ti vedo mi viene di morire. Allora? E fu stanotte, notte tutta di serenate, perché fatta serena la serata, alla faccia di freddo e gelo, Lello Analfino ha levato alto in cielo il canto di un coccio d'amore. Ha chiamato Porfirio Rubirosa, ha voluto questo brano. Per Ava Gardner? No, no, ha voluto questo brano da dedicare a Rosita, Chiquita, Paquita, Juanita e Chihuahua. Ammazza. Metti nell'occhio toi tu stiti. Stiamo a posto. Pensavo a Ava Gardner. Allora Mario, tu bolla? Dai, grande giornata. Cioè Buttafuoco si è messo a tossire su Brian Ferri, non dico altro. L'avrei ucciso. Senti un po', va. È malato. Ma... senti. Eroicamente presente. Un altro giro, vabbè, appena lasciala sotto così. Allora la lasciamo sotto quando c'è la voce di Brian Ferri, magari lo facciamo ascoltare. Sì. E ecco. Ok, mo basta. Sei contento? Parliamo di Trump. Va? Allora, ti ricordi Giovanni in questi giorni cosa è successo? Le spie russe. Ne abbiamo parlato anche adesso. Le fake news. Le elezioni. Che poi truccate. Le fake news come se fosse una novità. Ci sono da non secoli. Non legge i giornali di oggi. Le fake Obama news. Con le fake news. Insomma, c'era un tentativo molto chiaro del Partito Democratico Americano per cercare di ribaltare addirittura, voi pensate, immaginate il voto dei grandi elettori su Trump. Come è andata? Male. Hanno perso la seconda volta. È meravigliosa questa storia. E pensa che finora almeno, ho visto il conto, ci sono 7 delegati che hanno cambiato idea, 5 sono democratici e 2 di Trump, quindi la Clinton è riuscita a perdere perfino 5. I voti. Allora, questo per dire cosa? Che secondo me... l'arroganza non paga. No, ma soprattutto sono fuori dalla realtà. C'è un editoriale del New York Times oggi che dice che bisogna smetterla col voto col collegio elettorale. Cioè una cosa stabilita dai padri fondatori che ha sempre funzionato. Il problema è che adesso loro hanno perso e quindi vogliono cambiare. Il double standard è veramente dei liberals, è veramente incredibile. Però questa è secondo me una grande lezione dalla quale o si riprendono oppure perdono anche le assomiglia elezioni. Assomiglia a quello termine. Di Stalin, quel double standard. Insomma, sì, sto dicendo, è buona questa, bisogna che me la ricordi. Vabbè, è così, è una giornata così, bisogna che se ne facciano una ragione. Hillary è andata così, mi spiace tanto. Purtroppo non c'è niente da niente fare. Da fare. Cara Hillary, bisogna che te ne fai una ragione. Salamino! Non la faccia come il C, ma la faccia come il Q di quadro. Un cuore con la Q di quadro, quella di Giuliano Poletti, ministro del lavoro. Musica! Giovani scappano via in cerca di lavoro fuori dalla patria e il signor ministro, che è oltretutto un ministro del pane quotidiano, se la gode, dice è un bene, questo paese non soffrirà ad averli tra i piedi. Oh, c'è tutta un'Italia svuotata di fresche energie e il ministro del lavoro, cioè ministro del pane quotidiano, che peraltro è militante del Partito Comunista Italiano, peraltro è agrotecnico, peraltro è pratico di cooperative, di politica sociale, con quella sua faccia tutta a cuore, col Q di quadro, da quadro dirigente, è contento che i giovani non siano tra i piedi, perché dice non è che qui siamo rimasti dei pistola. Ma che vuole dire questa parola pistola? Beh, un po' pistola. È del nord. È del nord. Sì, okay. È una parola del nord. Sì. E quindi è pistola. Emiliana, pistola, scemi, insomma. Quella parola che in Sicilia comincia con la M. Sì. Però non la dice. No, è che la dice. Io non me lo posso permettere, non sono del Partito Democratico. Sta riciclando fraia di tutto sta facendo. Oh, praticamente, qual è la situazione? Io credo, no, senza malizia lo dico, Giovanni, forse perché secondo me con un voucher non è che ti puoi pagare una cena per andare a cena con Salvatore Buzzi, probabilmente sarà per questo, no? Comunque vorrei dire una cosa, dobbiamo accorciare, no? giusto, giusto in Sicilia, giusto in Sicilia, non perché io voglio dire le cose proprio di Sicilia, perché dice, non è che sono di Sicilia, insomma, no, no, per carità, oh, giusto si capisce in Sicilia, che sei trentino. Per esempio, già qua siamo io e Gloria, qua, no? Sì. Già siamo due. In Sicilia, quelli che sono fuori dalla patria siciliana, io non sono più giovane, ma Gloria sì, sono 9.823, di questi 100.000 già 9.823 sono siciliani. Ancora musica. Oltre la mamma e la vecchia Concetta, sorella di mamma o papà, ho una cugina graziosa maschietta che quasi... E tutte queste cugine graziose maschiette se ne devono andare via. Mario Barresi oggi sulla Sicilia dedica al signor ministro, che ha la faccia con il Q di cuore, un Ma non era di quadro? Di Q di cuore, quadro, cuore, quello satirico. Ah, ah, ok, ah, di quello, cuore, quello, lì, quello sì. Di Vincino, ah, quello di Vauro. Q di quadro, di cuore, fa un lesto elenco di questi che ci siamo tolti tra i dai piedi. Dai piedi noi chi ci siamo tolti? Per esempio, a Catania già il vicepresidente della Sorbona, Picciotto De Catania, ce lo siamo tolti dai piedi. Per esempio, il chirurgo che in Canada ha brevettato il test antitumore, ce lo siamo tolti dai piedi. Per esempio, quello che è il manager che sta lavorando a tutti i progetti nuovi in Francia, che è, era un ragazzo do quartiere di Librino, uno dei più difficili. Insomma, questa faccia come il cuore del quadro del quasi bis del Renzi. Insomma, questi ci stanno facendo una propaganda a Renzi meravigliosa. Che cosa confermano? Che questo è... Quando è in forma, alla grande la fa, applausi, scena aperta. No, vabbè, però devo dire una cosa, ma Politi, cioè, come ha fatto a dire una cosa del genere? No, ma veramente, non ti può scappare. No, cioè, è veramente difficile, guarda che, insomma, ci vuole una grande applicazione. Sai perché? È complicato me. Anche fare marcia indietro. Cosa dici per dire? Cosa ti per racconti? Dire non l'ho detto, volevo dire un'altra cosa. Una cosa così, capite? Proprio. Vabbè, fai con l'altra bolla. Dai. Abbassare, butterebbe più. Abbassare. Allora, butterebbe più. Io cerco di darvi una spiegazione su tante cose. Voi avete visto che stanno preparando un decretino da... No, 20... adesso cerchi della spiegazione. È un po', dai, informazioni. È un po', effettivamente, è un po' troppo, è un po' forte, bravo. Visto il soggetto. Sono d'accordo con te. Allora, proverò a mettere insieme i coach di questa Italia e a darvi un così, un'idea di un quadro. Sapete tutti che devono fare un decretino da una ventina di miliardi per la finanza, miliardi, eccetera. Sì. E uno si chiede, ma com'è che l'Italia finisce così? Che è sempre il problema la cassa, che bisogna socializzare le perdite, in fondo non si può fare diversamente, se no finisce anche peggio per i risparmiatori e i contribuenti. Finisce così perché questo Parlamento in questa legislatura ha fatto 387 cambi di casacca dei parlamentari dall'inizio, 212 alla Camera e 175 al Senato. L'ultimo, gli ultimi quattro si sono spostati, scusate la ripetizione, il 4 di dicembre dopo il referendum. Il grande fondamentale gruppo del nuovo Centro Democratico, come si chiama il partito di Alfano, ha perso quattro pezzi alla Camera, cioè Cesa lo ha mollato. Alfano ha conservato la poltrona, e poi vi chiedete, l'ha migliorata, e poi vi chiedete perché le cose vanno così. Perché si occupano di questo. Prego Giovanni, ti questo passo la linea. Mi passi la linea, ti grazie. La io linea, la linea la passo alla pubblicità, evviva! Non dopo aver dato i numeri 800 24 00 24, 349 238 6666, l'SMS e pubblicità. Mix 24. Il 20 dicembre del 2006 moriva Pier Giorgio Welby. Gravemente malato di distrofia muscolare, da anni chiedeva alla politica e al mondo intero che venissero staccate le macchine che lo tenevano in vita. Una vita che non era più tale per Welby, costretto in un corpo che chiamava prigione infame. Poco prima di morire, il 21 settembre del 2006, Welby manda un messaggio al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Io amo la vita, Presidente. Morire mi fa orrore. Purtroppo, ciò che mi è rimasto non è più vita, è solo un testardo e insensato accanimento nel mantenere attive delle funzioni biologiche. Il mio corpo non è più mio, la mia volontà, la mia richiesta, poter ottenere l'eutanasia. Sono passati 10 anni dalla sua scomparsa e Welby oggi è un simbolo della battaglia per l'eutanasia. Ma non solo. Il suo caso rappresenta un precedente giudiziario per il diritto all'interruzione delle terapie, ma anche una tappa per far maturare in Italia il dibattito sulle scelte di fine vita. Ma se Welby ha vinto la sua battaglia personale per il diritto a morire, la sua volontà è stata solo in parte realizzata. La mia volontà, la mia richiesta, poter ottenere l'eutanasia. Vorrei che anche ai cittadini italiani sia data la stessa opportunità che è concessa ai cittadini svizzeri, belgi, olandesi. Mentre in Olanda, Belgio e Paesi Bassi, primi a legalizzare l'eutanasia nel 2002, si discute oggi se ammetterla anche per i minori di 18 anni, in Italia manca ancora una legge sul fine vita. Ecco dunque per la storia, dopo il giornale radio, a 10 anni dalla morte di Welby, una puntata che è dedicata a un caso di eutanasia in Olanda che fece molto scalpore perché se ne fece un programma televisivo che in tutta Europa fece discutere moltissimo. E adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. New England Journal of Medicine, ottobre 2016. Insorgenza di morbillo in una comunità Amish non vaccinata in Ohio. Il morbillo è eliminato negli Stati Uniti dal 2000. Ma naturalmente qualcuno che importa il virus perché si è beccato il morbillo, non essendo probabilmente vaccinato, in paesi fuori dagli Stati Uniti, può importare ovviamente la malattia. E può provocare danni seri, perché sapete che il morbillo non è affatto una passeggiata, può dare veramente problemi. E è successo negli Stati Uniti perché due Amish, sapete, quella popolazione che è confinata in alcune parti degli Stati Uniti, prevalentemente in Ohio, che rifiuta la meccanizzazione, per cui è rimasta, diciamo, all'Ottocento, prima della rivoluzione industriale. Allora, due Amish erano andati nelle Filippine, non erano vaccinati contro il morbillo, perché gli Amish si vaccinano solo nel 14% dei casi, mentre invece la popolazione generale è vaccinata intorno al 90% negli Stati Uniti. Bene, questi due Amish non vaccinati vanno nelle Filippine, si beccano il morbillo e tornano in Ohio. Tra il marzo e il luglio 2014 si verificano 383 casi di morbillo in 9 contee dell'Ohio. Bene, il 99% erano Amish, nel senso che questi importatori avevano contagiato i loro correligionari e naturalmente avevano contagiato praticamente zero il resto della popolazione perché era vaccinata. Un altro dei buoni motivi per continuare a sostenere le vaccinazioni è dimostrare, come si vede in questo caso, che se non ti vaccini ti becchi la malattia con tutte le conseguenze, spesso letali. Mario, c'è ancora un aggiornamento? Sì, no, segnalo che dopo una raffica di sospensioni Mediaset fa più 19% in borsa, sapete tutti che... Quindi vuol dire che la scalata è in corso? Quello sarebbe... O Berlusconi tenta una disperata... Bollore salirà al 30% a quel questo punto, l'ha dichiarato, a quel quindi... punto chiamerà l'assemblea, vediamo che cosa succede, è interessante però, molto, no? Molto. Io ho un'idea che secondo me tutta questa roba farà bene comunque al piccolo mercato italiano in qualche maniera. Penso anch'io. Sì. E per chiudere, Gloria Guerrera, che cosa ci presenta oggi? Oggi una canzone per chi non smette mai di crescere. Renato Raschel, Il piccolo corazziere. Mamma, ti ricordi quando ero piccoletto che mi ci voleva la scaletta quando a letto? Come son cresciuto, mamma mia, devi vedere. Figurati che faccio il corazziere. Dicono che di crescere non mi dovrò fermare. Dicono che posso ancora più alto diventare. E perciò la sera quando c'è la ritirata mi danno l'acqua come all'insalata. Certamente crescerò, ma in attesa mi farò i tacchetti alti un metro un po'. Quando noi di scorta andiamo appresso a una vettura, noi dobbiamo essere tutti uguali di statura. Io perciò cammino tutto dritto appresso al cocchio e i miei compagni marciano in ginocchio. Mi ricordo quando ero cadetto a Caianello, eravamo lì che si caianellava del più e del meno, sa, e Caianella oggi, Caianella domani, ma non c'era quell'amalgama sia fittizio che avvocatizio e non disgiunto da quel senso euforico ed assiomatico che distingue gli altri concreti per il senso siderurgico e metallurgico. Eravamo lì che facevamo i cadetti quando viene uno e fa: scusino che loro fanno i cadetti, dico sì perché, dice beh me ne faccia due, non l'avesse mai detto, non l'avrebbe sentito nessuno, comunque noi continuavamo a fare i cadetti e ne facevamo anche parecchi, tanto che la gente passava e diceva ma guarda quelli lì come fanno i cadetti, ma guarda quelli lì come fanno i cadetti. La cosa cominciava a prendere un po' di affumicaticcio, tanto che provocò un decreto ministeriale che limitava alla sola domenica il fatto di dire ma guarda quelli lì come fanno i cadetti. I ragazzi pur tuttavia, consci di un destino effimero, si limitavano al fatto cauzionale e quindi optavano. La madre, il padre non c'erano e cominciò a piovere un'acqua, ma un'acqua che veniva giù che tutti dicevano almeno andassi in su, ma va. Un ingegnere che si trovava presente dice la riparo io, niente da fare, eppure era un ingegnere giovane che aveva raggiunto la meta agognata. La cognata, ma non deve essere così, no no. Dice il comandante che farò una gran carriera, perché c'ho la spada, gli speroni e la pancera, per quel piede dolce saldo il cuor, la mano lesta. E c'ho sta cazzarola sulla testa. Quando nella mensa siamo tutti radunati, gli altri se ne stanno bene bene accomodati, mangiano seduti, io soltanto sono quello che mangia in piedi sopra uno sgabello.